Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Sono tante le novità fiscali emerse negli ultimi mesi, vi abbiamo tempestato con tutte queste notizie. Sono arrivate queste novità prima con i provvedimenti Salva Italia, Cresci Italia, il decreto sviluppo, le varie riforme che si sono susseguite sui comparti più importanti, le pensioni, il lavoro, la legge di stabilità. Per i professionisti quella di aggiornarsi è una necessità sempre più sentita. Questa esigenza, lo sapete bene, ne abbiamo parlato anticipandovi i contenuti anche ieri, risponde la 22esima edizione di Telefisco, il convegno dell'esperto risponde del Sole 24 Ore, che quest'anno raggiunge il record di sedi coinvolte, 103 tra quelle collegate e quelle principali. Tra gli argomenti più caldi, i lavori sono in corso questa mattina qui nella sede del Sole 24 Ore, ci sono il redditometro, l'IMU, le novità sull'IRPEF, l'IRAP, ma anche la tassazione sui patrimoni con il bollo, la Tobin tax sulle transazioni finanziarie, l'IVI per i patrimoni all'estero. Tanti di questi argomenti però non toccano solo la quotidianità dei professionisti, che anzi sono i primi a doverne parlare con i loro clienti, e tutti i cittadini devono sapere come comportarsi di fronte al fisco. Vi è mai capitato, per esempio, ne abbiamo parlato tante volte, quindi a molti di voi ahimè è capitato, di ricevere una cartella esattoriale o la notifica di una contravvenzione stradale trovandole completamente immotivate? Ora c'è un modo introdotto con la legge di stabilità per bloccare la notifica e far sentire nelle proprie ragioni. Vi ricordate per esempio tutte quelle fasi di cartelle pazze? Forse appunto con le misure introdotte dalla legge di stabilità situazioni di questo tipo non dovremo più vederne. Allora noi oggi a Salva Danaio, approfittando degli esperti di Telefisco, ci concentriamo sulle modifiche introdotte in caso di contenzioso con il fisco. Ne parleremo rispondendo alle vostre domande, partendo dalle vostre esperienze. Con noi Antonio Iorio, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che peraltro parla nel pomeriggio a Telefisco e dovrebbe relazionare anche sulla responsabilità dei consulenti, se non ho capito male. Iorio, benvenuto allora. Buongiorno. Per la prima volta qui nei nostri studi di Milano, appunto, di Radio 24. Per tutte le vostre testimonianze e considerazioni, naturalmente i canali per interagire con noi sono sempre gli stessi: per intervenire in diretta 800 24 00 24, per scriverci potete farlo con l'SMS 349 238 6666, ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Quindi vi ho dato tutte le modalità per arrivare a noi. Adesso andiamo a vedere cosa succede oggi in borsa. È veramente una giornata movimentata oggi per i mercati finanziari europei, ma direi che è particolarmente movimentata per Piazza Affari. Le borse europee sono poco mosse, tutte in territorio leggermente negativo, con l'unica eccezione di Londra che segna più 0,10%. Vola l'euro stamattina a 1,3555, più che altro dovremmo dire che sono proprio le altre monete che si indeboliscono sempre di più in questo panorama di guerra valutaria di cui abbiamo descritto i meccanismi anche la scorsa settimana. Milano, FTSE MIB meno 2,24%, cosa succede? Che crolla Saipem meno 35%, il gruppo ieri sera ha lanciato questo allarme utili, questo profit warning, ma mi chiedo se il mercato sia realmente convinto di un problema di conti e di riduzione delle prospettive di crescita per il prossimo anno se mette a nudo il titolo in questa maniera. Meno 35%, vi dicevo, c'è stata molta difficoltà ad entrare in negoziazione, a fare prezzo, e di conseguenza appunto questo è stato l'impatto non appena il titolo è entrato in negoziazione. Questa circostanza porta con sé naturalmente anche Eni nel vortice delle vendite, meno 4,51% per il cane a sei zampe, e quindi oggi giornata di grande attenzione sul comparto petrolifero italiano. Volevo verificare così se anche in Europa gli altri titoli del settore ne risentissero, non vedo movimenti appunto di sorta. Monte dei Paschi meno 6,32%, il titolo ormai è l'altro grande protagonista delle negoziazioni a Piazza Affari da giornata, aveva recuperato un po' negli ultimi giorni dopo i crolli della metà della scorsa settimana, e oggi nuovo meno 6%, perché l'inchiesta della Procura di Siena sta mettendo sempre più ogni giorno in luce aspetti davvero pessimi sulla gestione di questa banca degli anni passati, e di conseguenza il mercato torna a vendere il titolo. E siccome c'è anche la necessità che il gruppo raggiunga questa soglia dei 30 centesimi di euro per fare in modo che la fondazione venda un pacchetto del 10% del suo controllo della banca, c'è anche questo aspetto appunto che viene guardato con grande interesse. In realtà il titolo oggi arretra e appunto ritorna a 25 centesimi, anzi in questo momento è ancora sotto. Bene Luxottica invece per fortuna è un titolo che fa bene, dopo i conti comunicati ieri sera. Questo è un gruppo a grandissima vocazione internazionale, questo è un aspetto che viene particolarmente apprezzato dagli investitori, anche oggi più 3,66%, Atlantia più 1,24%. L'ultima notizia la diamo sul fronte obbligazionario, perché il Tesoro ha venduto tutti e 6 miliardi e mezzo di euro di BTP a 5-10 anni con tassi in discesa ai minimi dal 2010, è esattamente come era successo per l'asta di botta a 6 mesi della giornata di ieri. Sul titolo decennale il rendimento è sceso al 4,17% dal 4,48% dell'asta di dicembre, il livello più basso da ottobre 2010. Sul titolo a 5 anni il tasso è sceso al 2,94%, quindi siamo sotto il 3% dal 3,26% dell'ultima asta. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi. Con la collaborazione di Telefisco parliamo di contenzioso fiscale. Rispedire al mittente la cartella esattoriale quando la pretesa del fisco è sicuramente infondata. Un desiderio condiviso da tanti contribuenti che si sono trovati ad avere a che fare con le cosiddette cartelle pazze, e che diventa possibile grazie alle ultime modifiche introdotte dalla legge di stabilità. È infatti possibile bloccare con una semplice istanza le pretese di Equitalia o di un altro agente di riscossione se si sostiene che siano illegittime. La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di notifica. A partire da allora, l'agente di riscossione avrà 10 giorni per trasmettere la dichiarazione all'agenzia o all'ente che ha originariamente mosso la contestazione. A quel punto, l'ente creditore avrà 60 giorni di tempo per dare una risposta attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso positivo, darà ragione al contribuente e fermerà l'agente di riscossione. In caso contrario, reputando le giustificazioni non valide, confermerà la notifica. Una mancata risposta, però, può costare molto cara all'ente impositore. Passati 220 giorni senza alcuna comunicazione di risposta, la pretesa esattoriale si annulla e il contribuente che ha inviato l'istanza per bloccare la cartella potrà essere sicuro di averla bloccata per sempre. Ci pareva logico utilizzare come colonna sonora per la nostra scheda quella di Rocky, quindi le vicende di un pugile che qualche volta, insomma, così ritornando ad immaginare le scene di quel famoso film, ci riconducono anche a quello che succede oggi. Antonio Iorio deve lottare di più con i suoi clienti che qualche volta, insomma, le chiedono di magari così chiudere un occhio verso il fisco, oppure di più con l'amministrazione fiscale che invece è molto rigida con i suoi clienti, insomma, come... Beh, ovviamente con l'amministrazione. Certo, insomma, sono un po' rigidi in amministrazione fiscale, e questo lo abbiamo detto anche molte volte, così immaginando quanti problemi potrebbero sorgere, lo fanno gli ascoltatori per noi con le nuove modalità del redditometro. Detto questo, questa mattina abbiamo invitato Antonio Iorio, che è uno degli esperti che interviene nel corso della giornata a Telefisco, e si parlerà proprio di contenzioso con amministrazione fiscale. Arriva una notifica, cosa dobbiamo fare, soprattutto quando questa ci coglie davvero alla sprovvista, quando noi abbiamo l'assoluta certezza di esserci comportati correttamente con la nostra dichiarazione di redditi, aver compiuto appunto tutto quello che dovevamo fare. Qualche volta peraltro c'è anche da verificare se c'è una responsabilità del professionista che ci segue, e qualche volta rivendicare anche, come dire, questa responsabilità. Certo. Non è facile, Iorio, no? Beh sì, diciamo che i casi in cui si può rivendicare la responsabilità del professionista sono abbastanza circoscritti. Anche se ultimamente va detto che sia l'Agenzia delle Entrate sia varie procure stanno abbastanza delineando quando il ruolo del professionista si dice può rilevare a titolo di concorso, cioè dire di quella violazione non risponde solo il contribuente ma ne risponde anche eventualmente il professionista. Quindi diciamo che questo deve essere anche un monito per tutti i professionisti affinché ci si comporti veramente in modo corretto e molto chiaro con i clienti, no? Perché spesso si sente dire me l'ha detto il mio commercialista piuttosto che il mio avvocato. Ecco, è bene chiarirle prima queste cose per evitare espressioni di questo tipo che se poi percepite dal verificatore piuttosto che da qualche ufficio giudiziario e fondate, evidentemente qualche problema lo stanno dando. Beh, poi un conto è dire me l'ha detto il mio avvocato, me l'ha suggerito, e un conto è che magari il professionista abbia assunto completamente certo la... Il problema è quello, evidentemente. Per avere un'idea, abbiamo in giurisprudenza per esempio casi recentissimi in cui il professionista, il contribuente era stato indagato perché non aveva versato l'IVA, che è un caso purtroppo molto frequente in questo periodo, non c'è per l'intento evasivo, certo, perché esattamente. E poiché questo è un reato superando i 50.000 euro, il contribuente si era difeso dicendo in realtà io ho delegato tutti i miei adempimenti al commercialista, quindi io non sapevo di questa cosa. Ebbene, la Cassazione, quindi sentenza ormai definitiva, ha chiarito che in questo caso la responsabilità è comunque del contribuente, salvo che non si riesca a dimostrare, diciamo, un'azione cosciente e volontaria del professionista. Perché se tu deleghi completamente ad un professionista, poi comunque dovrai avere una certificazione che lui abbia svolto il suo lavoro. Esatto. Beh, comunque esatto, mi sembra anche una regola di buon senso da parte nostra. Viceversa, il professionista che ha suggerito al contribuente di fare, diciamo, delle cose poco oneste con gli F24, cioè compensava dei crediti che non aveva, e è stato ritenuto responsabile anche penalmente. Benissimo, insomma, oddio. Detto questo, noi facciamo finta che queste azioni non succedano, che i professionisti non diano questi suggerimenti. Andiamo invece alle novità introdotte dalla legge di stabilità, che sono un po' al centro anche della nostra puntata. Con queste novità, come dire, non dovremo più assistere, leggere sui giornali e raccontare noi anche dalla radio di queste situazioni paradossali che si sono verificate negli anni passati, platee intere di contribuenti inondate di cartelle pazze, molto spesso immotivate, Iorio? Beh, sicuramente ci dovrebbe essere una svolta. Purtroppo la svolta è a metà e non è completa. Perché? Perché innanzitutto questo provvedimento riguarda tutte le cartelle, quindi non parliamo soltanto di imposte dirette, IVA, diciamo, quindi dei crediti dell'Agenzia delle Entrate, ma di qualunque credito che viene riscosso con le cartelle, quindi immaginiamo le contravvenzioni stradali, contributi. C'è già una domanda di Michele da Napoli, fra un po' lo sentiamo. E quant'altro, no? Quindi veramente riguarda tutto. Perché purtroppo la svolta è solo a metà? La svolta è solo a metà perché il fatto che il contribuente faccia questa istanza, chiedendo quindi di sospendere, eventualmente di annullare la cartella, purtroppo non è stato previsto che blocchi anche i termini per ricorrere. Allora, poiché quando uno riceve una cartella per rivolgersi al giudice sono 60 giorni, altrimenti non lo può più fare, il fatto che lui faccia istanza Equitalia non blocca quei 60 giorni, quindi o gli uffici saranno veramente molto veloci, non c'è una sorta di prescrizione, esattamente, diciamo, no, o gli uffici saranno molto veloci nel rispondere, o il contribuente cautelativamente dovrà sempre fare ricorso, perché se no i 60 giorni decorrono e se poi per caso ha torto non può più impugnare. Mi spiego, poiché Equitalia può rispondere, in realtà spezziamo una lancia a favore di Equitalia. Qui Equitalia non ha colpa in questi casi, perché spesso è l'ente impositore, per capirci, è il comune quel comune che gli dice Equitalia varmi a riscuotere nei confronti di Iorio questa contravvenzione stradale. Equitalia è un po' un ambasciatore in questo caso, è un esattore. Come quindi allora dire. In questo caso il contribuente che dice sono sicuro di non averla commessa, questa infrazione, quindi no, questa multa è sbagliata. Prima la devi dimostrare. Esatto, può succedere. I casi plateali sono quelli che contempla la legge, che ha già pagato, che si è prescritta, quindi sono passati 5 anni nel caso di contravvenzioni stradali, e altro caso che il giudice l'ha bloccata, che è un caso molto frequente perché spesso non interagiscono le pronunze giudiziarie rispetto alle varie banche dati. Altra bella questione, esatto. Insomma, la mano destra che non sa quello che fa la sinistra. E quindi a questo punto il contribuente, se sta in una di queste condizioni, fa questa istanza Equitalia e dice questa cartella bloccata per questo motivo, fa questa sorta di richiesta. Però dal momento in cui è arrivata la cartella, i 60 giorni per impugnarla innanzi al giudice o in commissione tributaria, a seconda del tributo, di ciò che viene chiesto, no, non si sospendono. Quindi il contribuente comunque deve attivare una doppia procedura di difesa? Cautelativamente sì, salvo che Equitalia, che riceve questa istanza, scrive velocemente all'ente impositore, può essere il comune, l'agenzia, e questi non rispondono nei 60 giorni, allora sì, però immaginare 60 giorni tutto questo, devo dire, lo auspichiamo, ma non sarà così facile. Quindi in realtà è una svolta a metà. A me, ecco, come tante svolte che sono un po' all'italiano. quotidiana. Allora, visto che ci siamo così già addentrati nel terreno delle contravvenzioni, completiamo il discorso con la prima domanda di un ascoltatore, che è Michele da Napoli, credo che sia anche suo conterraneo, Iorio, no? Ecco, più o meno. Michele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, ha preso una multa, ma lei dice non ho fatto io l'infrazione. Io ho preso una multa in un comune vicino Venezia, che non sono mai stato praticamente in quel comune, e questo è stato che mi è arrivata la notifica a settembre. Praticamente io l'ho impugnata tramite l'avvocato, perché dal verbale del comune che mi ha rilasciato questo verbale c'è scritto praticamente che la mia macchina era verde, invece c'è una macchina blu con la mia targa. Volevo sapere il provvedimento che è stato inserito nella legge di stabilità potrebbe anche essere detrattivo, o è l'unico percorso che devo fare io, quello dell'avvocato, di andare avanti con la strada che ha già intrapreso? Michele, la ringrazio. Allora, giustamente dice la legge di stabilità arrivata a fine anno. In realtà potrebbe essere trattivo, però nel caso dell'ascoltatore che succede che lui ancora non c'è un accertamento che la contravvenzione sia sbagliata, sicuramente come dice lui, e quindi in realtà deve andare avanti col ricorso, che da quello che capisco sta facendo. Qualora dovesse vincere il ricorso, come tutti auspichiamo, e dovesse poi arrivare alla cartella, circostanza non improbabile, allora ecco, per quella cartella potrà far valere la legge di stabilità, cioè fare l'istanza e dire: guarda che io ho vinto in data tot presso il giudice di pace. Comunque gli conviene andare avanti. Assolutamente sì. E poi magari ecco circostanziare al massimo la sua presenza in un'altra località in quel giorno in cui gli è arrivata la multa. Non è il primo caso. Ma saremo pieni di casi di questo tipo. Credo che sia difficile fare la lotta all'evasione in tutti i paesi in cui esiste e in cui è forte. La lotta all'evasione in Italia è difficile, sicuramente. Ogni volta che si tenta di fare un passo avanti si scatenano polemiche di tutti i tipi. L'anno scorso erano i problemi della presenza sul territorio, sulla spettacolarizzazione della presenza sul territorio, tra l'altro peraltro non voluta, quest'anno, e allora ci chiedevano di fare l'incrocio dei banchi dati e non di fare operazioni sul territorio. Il redditometro non è altro che un incrocio di banche dati, di fatto. Riguarda un numero limitato di soggetti che verranno sottoposti a controllo e che sono quelli che hanno quella che io ho chiamato l'evasione più sfacciata, cioè la differenza notevolissima fra reddito consumato e reddito dichiarato e prodotto. Quindi tutto sommato è un passo avanti non particolarmente significativo. È indirizzato sulle persone fisiche e non sulle imprese. Da lì si è scatenata questa reazione che appunto mi fa pensare che gli evasori in Italia sono abbastanza forti ancora. Il redditometro partirà nei prossimi mesi, oramai la macchina è messa a punto, faremo 35.000 controlli che sono quelli previsti comunque normalmente, che prima venivano fatti più con i vecchi sistemi di accertamento sintetico, quelli sì forse legati a presunzioni, legati a effetti catastali, moltiplicatori. Oggi invece andiamo sulle spese reali, sulle spese effettivamente sostenute e che sono presenti nelle nostre banche dati. E questo era Tilio Befera, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate. Noi questa mattina lo abbiamo registrato, questo suo intervento all'avvio dei lavori di Telefisco, 22esima edizione, il convegno annuale dell'esperto risponde del Sole 24 Ore. Ne abbiamo approfittato anche noi per organizzare una puntata di Salvadanaio in cui parliamo di contenzioso con il fisco, che si può scatenare anche quando con il redditometro non tornano i conti, giusto Antonio Iorio? Certo. Secondo lei, voi che cosa prevedete come professionista? Appunto, un aumento dell'attività di controversia fiscale anche per gli accertamenti che il redditometro appunto metterà in essere? Ma diciamo che tutto ciò che dice il direttore Befera secondo me è condivisibile, ha pienamente ragione, anzi gli va pure dato atto insomma del lavoro che è stato fatto. In realtà la variabile da cui poi dipenderà se si scatenerà un contenzioso o meno non è tanto il redditometro di per sé, perché obiettivamente può essere un ottimo strumento per intercettare delle posizioni strane, no? Perché è strano che io consumi per 100.000 e dichiari quell'anno 20.000. E certo. Quindi l'evasione fiscale sfacciata, esatto. Questo ricordo. I primi 35.000 accertamenti partiranno su queste situazioni clamorose. Il punto qual è? La vera prova del 9 sarà quanto in sede periferica, gli uffici sul cioè chi fa i controlli, sarà tollerante verso il contribuente e capirà le ragioni. Perché spesso e volentieri, soprattutto in questo periodo di recessione, non bisogna scandalizzarsi se un contribuente è abituato a mandare i figli nella scuola privata molto costosa, ma non guadagna quel reddito e dimostra che attinge dai suoi risparmi. Ecco, se ci sarà questa comprensione da parte degli uffici, probabilmente lo strumento funzionerà e sarà molto utile. Se invece, come è successo purtroppo spesso fino ad oggi, ci sarà una chiusura, nel senso che il dato del redditometro è indiscutibile, perché i funzionari non vogliono accettare nessuna giustificazione, è ovvio che qui il contenzioso esploderà. Allora bisognerà verificare come si applicherà la questione dell'inversione dell'onere della prova. È un aspetto di cui abbiamo tratto un estratto da Befera, lo sentiremo più tardi, e questo è probabilmente l'aspetto che indispettisce tutti di più, perché effettivamente che un contribuente debba sempre solo giocare in una posizione di difesa effettivamente non è proprio tanto giusto a volte, soprattutto visto che abbiamo di fronte uno Stato, e questo è stato anche una grande battaglia, non posso dirlo perché siamo in par condicio, ma anche di Oscar Giannino, dei nostri microfoni. Lo Stato non è che si comporti invece in maniera sempre piuttosto lineare e corretta nei confronti del contribuente, nei confronti dell'azienda a cui deve tanti soldi perché sono stati fatti lasciamo stare tutto questo, perché qua è solo versiamo fiumi di inchiostro e fiumi di parole e basta. Allora andiamo invece alle nuove procedure che sono state stabilite con delle nuove norme contenute nella legge di stabilità, che hanno previsto una possibilità di difesa in più nei confronti delle cartelle esattoriali pazze, o meno, insomma, quantomeno insomma il cittadino oggi ha l'opportunità di difendersi un po' meglio quando la pretesa del fisco è ritenuta priva di fondamento. E però appunto il contribuente anche qua, Iorio, nonostante le novità della legge di stabilità, deve comunque sempre provare, no? Che queste cartelle siano prive di fondamento. Certo, deve provare lui e non solo, ma se fa questa istanza e poi si scopre che non ha detto il vero, rischia evidentemente non solo delle sanzioni penali, ma la norma prevede addirittura delle sanzioni dal 100 al 200% di ciò che egli doveva. Quindi, diciamo, deve essere fatta con molta oculatezza, quindi quando si è certi che si è pagato, piuttosto si è certi che il giudice ha sospeso la cartella, oppure che il giudice ha dato ragione. Quindi devono esserci dei vizi di fondo abbastanza evidenti. Assolutamente evidenti. Sì. Allora, Carolina ci scrive: l'azienda dove lavoro ha cambiato indirizzo a marzo del 2012. A novembre mi rendo conto che un canone acqua che dovevamo pagare non è arrivato. A questo punto mi rivolgo all'ente creditore, consorzio di bonifica, mi dice la località in cui sta, che mi informa di aver trasmesso la pratica ad Equitalia. Mi rivolgo ad Equitalia, che cerca il mio numero di cartella ed incassa l'importo dovuto. I primi di gennaio mi arriva una cartella di notifica chiedendo il pagamento entro 60 giorni. Ho cercato in tutti i modi di contattare Equitalia per avere chiarimenti, email, telefono, senza avere risposta. Mi chiedo, devo per forza recarmi di persona per chiarire l'argomento? Che succede se non mi presento, Iorio? Non presentarsi, non andare non è bello. Questo è proprio uno di quei casi, perché qui sembra di capire che il contribuente ha pagato e che ha la prova del pagamento, è uno di quei casi in cui si può applicare la nuova norma. Quindi si può fare un'istanza in cui, e tra l'altro sulle pagine del quotidiano abbiamo anche messo il facsimile dell'istanza, in cui si può chiedere a Equitalia di sospendere tutta l'attività di riscossione in quanto è stato pagato in data tot. Mm-hmm. Quindi si può fare anche con la raccomandata, si può evitare di andare, però bisogna farla. No, tra l'altro appunto si è già attivata in totale buona fede sin dall'inizio questa ascoltatrice, esatto, quindi... che si era reso conto che questo pagamento non era avvenuto per questa non comunicazione di un cambio di indirizzo, per cui qua voglio dire... La buona fede mi sembra evidente, incontestabile. Allora andiamo a sentire altri ascoltatori all'800240024. Sentirei Enrico da Mantova, perché qua Enrico, la sua riflessione che avevo visto anticipata nei nostri monitor, mi ha fatto scatenare a microfoni spenti una piccola chiacchierata appunto con Antonio Iorio sull'esistenza di questi abbonamenti Rai speciali, dei quali io neanche ero a conoscenza. Enrico, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa Rosciani, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei. Credo e spero più che altro che sia pertinente con l'argomento della trasmissione. In ogni modo, in maniera molto sintetica, io sono veterinario e non ho né ambulatorio né partita IVA perché sono dipendente di un'industria, ma mi sono visto arrivare dalla parte della RAI una richiesta per in pratica pagare questo abbonamento speciale che è previsto solo per i mezzi audiovisivi che sono utilizzati negli ambulatori o negli studi medici associati, quegli schermi. Le posso chiedere quanto le ha chiesto la RAI per questa tipologia di abbonamento speciale? Perché c'è una marea di tariffe, ho scoperto stamattina. Guardi, francamente a memoria non mi ricordo. Ma però più o meno dell'ordinario 113,50 sì, che paghiamo noi? Sì, ah, di più? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tanto più che io comunque in casa ho un unico apparecchio TV, ma è quello di uso familiare della famiglia, certo, insomma, ovvio. Quindi Enrico, nella sostanza la RAI presume che lei, svolgendo questa attività professionale, sia dotato di un apparecchio con degli schermi, con dei monitor tali per cui visiona anche da lì i programmi della RAI, per cui le applica la tassa di possesso famosa. Io ho provato a contattare più e più volte i call center, ma mi sembra di aprire una scatola cinese. Dopodiché sono andato sul sito e anche lì non ho praticamente avuto nessuna risposta. E di comune accordo col commercialista, ma ho detto: vabbè, insomma, lascia perdere, poi si faranno video nuovamente, si stancheranno. Però insomma, non mi sembra un approccio corretto. Ecco. Va bene, Enrico, sentiamo che cosa ci dice Iorio, che pure queste situazioni le conosce. Allora, ho scoperto che ci sono delle tariffe professionali per l'abbonamento RAI per gli albergatori piuttosto che per altre categorie. Un mondo questa mattina mi si è aperto. Sì, pazzesco. Il famoso canone speciale, che peraltro dalla scorsa dichiarazione per le imprese bisognava anche inserirlo nella dichiarazione dei redditi. Ci sono varie tariffe a seconda del tipo di attività. Nel caso del nostro ascoltatore, secondo me, ormai se non l'ha fatto magari posso prassedere, però conviene sempre fare una bella raccomandata e spiegare che non si ha nulla a che fare con quella richiesta di canone speciale, perché lui non c'ha un ambulatorio, da quanto ci ha detto, e non c'ha soprattutto nessun mezzo audiovisivo dentro l'ambulatorio, per cui non è dovuto. Perché è vero che è ancora un preavviso della RAI, quindi può essere anche che verosimilmente non succederà più nulla, però certo. Quando non si riesce a contattare per qualsiasi ragione il call center o quant'altro, a mio avviso conviene sempre scrivere all'ufficio che lì viene indicato e lasciare traccia del fatto che non c'è il presupposto per il pagamento. Questa faccenda dell'abbonamento RAI mi fa sorridere, perché conosco una marea di persone che si disinteressano totalmente al versamento del canone, anche se so, perché Iori me lo raccontava, che in realtà negli ultimi anni hanno avuto in RAI un notevole aumento appunto del numero degli abbonati, solo che non si capisce perché più aumentano gli abbonati che regolarmente sono l'abbonamento, più il canone RAI ogni anno aumenta. Vabbè, questo comunque non voglio assolutamente parlare di un'azienda concorrente, quello è un bisonte di fronte a un topolino, per cui ci mancherebbe anche che oggi discutiamo con loro. Però detto questo, insomma, mettetevi in regola, cosa vi devo dire? Lo so che qualcuno è un po' disturbato da questo, però bisogna farlo. Sentirei Franco da Roma e poi gli rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Senta, io chiamo a proposito violazioni al codice della strada, nel senso che il territorio del mio comune è stato diviso in tre zone A, B e C e i residenti Già Iorio sta sudando adesso, stamattina siamo arrivati anche alle multe. Comunque proviamo, Franco, poi riusciamo chiediamo ai nostri esperti del ramo auto. Sì. Vabbè, in sintesi io ho avuto un accertamento di violazione alle norme di circolazione perché non avrei, però al condizionale, non avrei esposto l'effettuato pagamento. In realtà io, come tanti altri cittadini, ho una tessera che ho pagato dal comune che mi autorizza a parcheggiare nella zona A che mi è stata assegnata. E questa tessera era regolarmente esposta. C'era il vigile urbano nuovo che quella mattina che non sapeva di questa procedura. No, del suo comune. Non è un vigile urbano, questo è un ausiliario del traffico. Un ausiliario, sì. Che non so se è la stessa cosa. Che ai fini degli accertamenti sì. Allora io farei due punti di riflessione vorrei fare con voi. Il primo: quanto vale la mia parola di cittadino rispetto a quella di un ausiliare del traffico? No, più che altro vale il suo titolo che ha, se ha pagato questo abbonamento che le dà diritto a star lì. Contestano, se ho capito bene, la mancata esposizione. Ah, ecco, signore. Se ho capito bene. Ma io ho una tessera che mi autorizza. Allora mi dico, il comune, prima di emettere la sanzione, prima di erogare la sanzione, la cartella esattoriale, non dovrebbe controllare se effettivamente a quella tua vettura è attribuito o meno un permesso certo, di parcheggio? Certo, lo so, il buon senso, Franco, cosa le devo dire? Per me ha ragione lei, e il problema è che qua abbiamo di fronte invece un panorama di rigidi, proprio come i ciliegi, è presente gli alberi, poi non so neanche quale sia il legno in assoluto più resistente, però Franco, lei per me ha ragione, adesso magari tutti questi aspetti, però già Iorio prima c'era andato, insomma proprio la rigidità dei funzionari che qualche volta sono indifendibili dal punto di vista dell'atteggiamento, però esatto, se contestano l'omesso pagamento, allora secondo me non c'è dubbio che ha ragione e può provarlo. Se invece contestano, come mi sembra di capire, la mancata esibizione, effettivamente, come dice il nostro ascoltatore, come faccio io a provare che era esibito rispetto a ciò che dice l'ausiliare? Se passasse questo principio, allora tutti saremmo autorizzati a girare senza patente, perché tanto ce l'abbiamo, la portiamo il giorno dopo, però lì sa come Franco, lei ha ragione, non lo so, riflettiamo un po' anche su tutto questo, la ragione ce l'ha, nel buon senso, però bisogna esporre questi tagliandi. Quando noi facciamo un accertamento, è l'accertamento che noi facciamo, è un'attività unilaterale, è un'attività che fa l'agenzia, dopodiché dà un avviso, fa un verbale e così via, e si apre un dibattito con il contribuente, che può dimostrare che quanto abbiamo noi valutato non è corretto per motivi interpretativi, perché ci sono dei documenti aggiuntivi, ci sono dei chiarimenti di qualsiasi natura che possono essere portati. E in quella fase di contraddittorio si addiviene ad una modifica, addirittura all'autotutela, cioè cancella totalmente l'accertamento. Con la stessa logica c'è nel redditometro, non cambia nulla, con un miglioramento dato dal fatto che l'incontro con il contribuente avviene due volte, una prima volta in via non ancora formalizzata, con un avviso di accertamento che non è ancora partito, e questo serve proprio per garanzia del contribuente e per sgombrare un po' i problemi prima ancora di entrare poi in una fase procedimentalizzata. E un secondo invece in sede di accertamento attraverso il normalissimo contraddittorio. Quindi non c'è inversione dell'onere della prova, o c'è sempre inversione dell'onere della prova se in qualsiasi atto che noi facciamo il contribuente può dimostrarci dei nostri errori. Il futuro del redditometro, nelle indicazioni di questa mattina di Attilio Befera, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, sulla spinosa questione dell'inversione dell'onere della prova, e cioè il redditometro dice: guarda che secondo me tu hai speso molto di più di quello che guadagni, quindi l'Agenzia delle Entrate ti chiama a giustificare questa posizione, è questa l'inversione dell'onere, tu devi dimostrare che ti sei comportato correttamente. Aspetto che è un po' indispettito, per Befera è in realtà un'azione di ulteriore tutela per il contribuente, però insomma io immagino che sarà un po' scomodo doversi andare a giustificare e spiegare che molte spese si sono fatte con i propri risparmi, e però signori, insomma, per combattere l'evasione fiscale da qualche parte si deve cominciare, se non ci va bene mai niente poi lo so che qualcosa non funziona. Detto questo, andiamo invece ai temi di questa mattina: la conflittualità con il fisco e i nuovi meccanismi di difesa introdotti dalla legge di stabilità quando arriva una cartella esattoriale che non ci convince. Ne stiamo parlando questa mattina con Antonio Iorio, esperto del Sole 24 Ore, che stasera interviene anche a Telefisco. Sentiamo Angelo da Bari. Angelo. Pronto? Sì, ci siamo. Buongiorno, io telefono da Bari. Mi riferisco a un episodio che mi è capitato nel 2011. L'Agenzia delle Entrate di Bari mi chiede tramite lettera un accertamento per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi di anno contributivo 2009. Nella stessa lettera mi viene anche specificato di mettermi in contatto con un'autoressa Pinco Pallino dell'Agenzia di Bari. Telefono a questa signora qua, la quale mi risponde che lei è completamente all'oscuro, nonostante che sulla lettera era stato indicato che la responsabile del provvedimento era questa signora. Vabbè, qua. Qui stiamo veramente alla follia, situazioni molto estreme, Angelo. Comunque lei ha risolto la sua situazione o no? Dopodiché ho preso contatto con l'Agenzia di Bari, ho dato tutta la documentazione possibile che loro mi hanno chiesto, e quantomeno mi aspettavo, poiché la lettera mi avevano anche scritto che se entro i 60 giorni non producevo tutta la documentazione avrebbero preso dei provvedimenti. Certo, perché sono non è arrivato nessun tipo di provvedimento, però quantomeno mi aspettavo una lettera in cui mi si diceva, mi si comunicava che abbiamo preso, diceva, della sua documentazione, lei risulta in regola. Come al solito il contribuente un'altra volta qua trattato. Lo so che c'è uno statuto del contribuente che negli ultimi anni non so quante centinaia di volte sia stato disatteso, non rispettato, violato, addirittura il Sole 24 Ore ogni tanto fa questi calcoli. Iorio, vabbè, insomma, questa è una situazione estrema, paradossale, esatto, sì. Però sicuramente però c'è da dire che effettivamente non c'è questo riscontro quando è favorevole al contribuente. Probabilmente sì, una volta per esempio c'era l'abitudine quando veniva liquidata la dichiarazione, cioè quando l'anagrafe controllava i dati dichiarati e andavano bene, arrivava una letterina in cui si diceva abbiamo controllato, va tutto bene. E poi furono sollevate anche da taluni questioni su quanto costava fare quella letterina e si è preferito non farla risparmiare più. Risparmiare sul francobollo, ecco, certamente. Quindi... allora, ovviamente avendo introdotto la questione del canone RAI non le sto a dire quanti sms stanno arrivando su tutti quelli che conoscono, altri che non pagano, vabbè, sentite cosa vi devo dire, sopporteranno le conseguenze e rischieranno se vogliono rischiare. Esatto. Andiamo invece alle questioni appunto legate agli accertamenti, alle questioni pregresse, quelle molto indietro nel tempo, le cosiddette iscrizioni a ruolo fino a una determinata cifra, c'è una rottamazione per un bel po' di situazioni, vero? Sì, c'è una bella rottamazione fino al 1999 fino a 2000 euro, quindi tutto ciò che era pregresso, ovviamente che non sia che non sia stato già oggetto di pagamento, quindi viene tutto. L'Agenzia delle Entrate cancella queste posizioni. Vengono cancellate, sì, e un'altra di quelle norme previste nel pacchetto, diciamo, novità sulla riscossione contenute nella legge di stabilità. E quindi diciamo serve sicuramente per fare una bella pulizia, perché essendo dati molto vecchi e dove probabilmente l'informatizzazione non era ancora ottimale. A livello esatto, era ottimale, e soprattutto ricordiamoci che fino al 2005, esattamente 2006, tutta la fase della riscossione non era gestita a livello di una società come avviene attualmente, che è Equitalia, ma da tanti concessionari della riscossione che erano di norma di diramazione bancaria, per cui effettivamente non era detto che le banche dati tra di loro parlassero molto bene, e quindi diciamo, viene fatta una pulizia, evidentemente per piccoli, cioè per importi fino a 2000 euro e non per importi elevati. C'è un'altra soglia importante, che è quella dei 1000 euro. La legge di stabilità prevede che per tutti i debiti fino a questo livello l'agente della riscossione debba aspettare che siano trascorsi 120 giorni dall'invio di una comunicazione dettagliata delle iscrizioni a ruolo prima di passare le maniere forti. Esatto, sì, diciamo è una cautela che viene presa, perché noi sappiamo che se non si paga da quando arriva questa cartella sono 60 giorni, Equitalia è legittimata a porre in essere le cosiddette misure cautelari. Il caso più classico è il fermo amministrativo, la famosa ganascia fiscale. Esattamente. E qui viene dato ulteriore tempo, proprio perché ci si rende conto che spesso questi bassi importi possono essere viziati all'origine. Quindi diciamo queste norme che fanno pulizia e questa norma, ancorché diciamo solo a metà, che consente al contribuente di bloccare in qualche modo il tutto, dovrebbe in certo qual modo alleviare un po' tutti eventuali errori che vengono fatti dagli enti impositori in realtà. L'ultima domanda, ma la deve fare telegrafica, di Andrea da Roma. Andrea, buongiorno, rapidissimo che siamo in chiusura, ma mi sa che non ci riesco a sentirla. Buongiorno, sì. Niente, io volevo sapere solo se l'accertamento dell'AMA vale come dichiarazione di inizio utenza il cambio di residenza. Quindi accertamento sulla tassa dei rifiuti, no? Non mi è mai arrivato il bollettino, io però a suo tempo ho fatto cambi di residenza per l'ICI, per tutto, quindi volevo sapere se per l'AMA a Roma... L'AMA deve dimostrare di aver mandato intanto questo documento, ci saranno delle raccomandate? Sì, c'è da dire che mi risulta che tipo al Comune di Roma quando si fa il cambio di residenza bisognerebbe andare a un altro ufficio dove si fa anche la dichiarazione ai fini dell'AMA, della gestione dei rifiuti. Se è avvenuto è ovvio che non ha colpa. Certo. Iorio, grazie per essere stato con noi, torni a trovarci grazie presto, a la lascio a Telefisco adesso e a tutti, buona giornata domani. Salva Danaio.